tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale e ricordiamo dal mio calendario anticlericale i misfatti di marzo. 1 marzo 2016, scandalo del cardinal Pell, mani bucate, sperperi, case di lusso, spese folli coi fondi religiosi. 2 marzo 2017, omicidio dell'anziano parroco di Trieste. La perpetua accusa un altro sacerdote, certo Don Paolo Piccoli, che poi nel 2019 sarà condannato a 21 anni di carcere per omicidio. 3 marzo 1616, seduta del Tribunale dell'Inquisizione a Roma, approvato il decreto contro il povero Copernico. 4 marzo 1675, Inquisizione romana condanna a morte in contumacia e brucia il fantoccio di un ebreo finto convertito di nome Emmanuel Passarino. 5 marzo 1616, reso pubblico il decreto dell'Inquisizione contro la dottrina copernicana. 6 marzo 1943, lettera del vescovo di Berlino a Pio XII sulla deportazione degli ebrei tedeschi. Entrambi tacciono, silenzio di Radio Vaticana. Sabato 7 marzo 2017, disgrazia al santuario di Monte Pellegrino, Palermo. Invece di un miracolo avviene il suicidio di un uomo che si lancia nel vuoto. 8 marzo 2018. Lutto delle polacche contro il no all'aborto decretato dal governo ultracattolico reazionario. Grande marcia di donne in nero. 9 marzo 2018. Diffamazione aggravata e diffusione di notizie false querelato il portale web della Chiesa di Milano. 10 marzo 1968, il parroco di Cerreto Castello Biella getta la tonaca alle ortiche e fugge con la sua amante. Bravo, liberati dell'oppressione clericale. Poi, dalla rivista storica National Geographic, marzo 2020, un bel articolo contro le monache stanche di pregare. Insomma, si parla di un monastero spagnolo del secolo XIII vicino a Zamora, la cui eco giunse perfino a Roma. Alcune monache abbandonarono le preghiere in comune e si allontanarono dal monastero, motteggiando chi rimaneva a cantare. Una di esse persino fuggì con un frate domenicano. È una bella coppia. Allora, il sito Rete L'Abuso, che invito tutti a consultare ogni tanto e iscriversi alla mailing list, ci segnala che il prete pedofilo Don Conti, che è recentemente morto, cosa ha combinato? È successo che c'era l'ordinanza per il Covid 2019 di fare solo funerali in forma privata. Invece i preti, che tra loro pedofili si aiutano tutti, gli hanno fatto solenni funerali. Il 11 gennaio 2020 Katia Ricciarella, famosa cantante, segnala verissimo la sua brutta esperienza con un frate che tentò di abusare di lei e per cui sfiorò il suicidio quando era giovane. E da internet, 13 febbraio 2020, ci segnala che una suora latitante, cioè una signora latitante, si era finta suora ed era stata ospitata in vari conventi, condannata per frode in Sicilia in contumacia, e si fingeva suora nei monasteri del nord Italia. Io sono convinto che i monasteri sono pieni di latitanti, finti frati e finte suore. Ex prete cattolico accusato di abusi sessuali, 20 febbraio 2020, ce lo dice la rivista Crux. Il prete pedofilo è Don Frederick Lutz, che abusava dei ragazzini negli Stati Uniti. Poi, un detto anticlericale, dico no alle religioni. Le religioni sono state create da entusiasti ignoranti o egoisti ambiziosi. Denis Diderot, 1713-1784. Arriviamo poi a un prete pedofilo del Michigan, ricerca su internet del 27 gennaio 2020. Ex prete condannato a 2 mesi per aver molestato un adolescente. Poi abbiamo il 7 gennaio, qui è una roba un po' vecchia, 7 gennaio 2016, vabbè, la filiamo dentro, prete arrestato per aver fumato droga. E poi, per concludere, questa recente, 20 febbraio 2020, prete dell'Ohio arrestato per pedofilia, child porn e child prostitution, eh? Questo qui ce lo comunica Friendly Atheist degli Stati Uniti. Bene, ciao a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale e partiamo da questo romanzo edito da Garzanti, autrice Emily Gunnis, che parla dei crimini clericali avvenuti in un convento inglese dove erano segregate delle ragazze madri che rimasero vittime di atrocità ignorate e private della loro libertà. Ricordiamo questa benemerita casa editrice, che è la Garzanti, che ha stampato anche il libro di Ukigoni sulla fuga dei criminali nazisti tedeschi e croati in America Latina. Leggiamo qualche detto anticlericale. Il nemico è il cattolicesimo, avido di potere, oscurantista, setato di sangue. Non ha mai esitato a creare martiri della conoscenza ogni volta che si è trovato in posizioni di potere. Sigmund Freud, 1856-1939. L'idea di Dio ha distrutto la felicità degli uomini. Francisco Ferrer y Guardia, 1859-1909. Leggiamo ora qualche effemeride anticlericali. E partiamo dall'11 marzo 2018. Fulmine anticlericale c'entra la chiesa, una chiesa in Ruanda. 16 cristiani morti e 140 feriti. Anche in questo caso il loro santo, il loro presunto Dio, non si è fatto vedere per proteggerli. 11 marzo, detto, allora 12 marzo 1938, grande messa di ringraziamento ordinata dal cardinal di Vienna Innitzer a favore dell'invasione nazista dell'Austria. E qui ricordiamo il clerico nazismo e il clerico fascismo. Ricordiamo che in Austria è avvenuto l'unico caso in cui fascisti e nazisti si sono uccisi fra di loro, con morti e feriti, perché i fascisti austriaci volevano una grande Austria indipendente, invece i nazisti volevano unire l'Austria alla Germania e quindi si uccisero fra di loro. 13 marzo 1909, decreto papale di scomunica contro Don Romolo Murri, troppo critico verso il papato. 14 marzo 2018, Don Carlos López Valdez è condannato in Messico a 63 anni di prigione per pedofilia cronica. 15 marzo 2016, Monsignor Balda confessa di aver passato ai giornalisti documenti riservati del Vaticano all'insaputa dei suoi superiori. Il solito prete spione. Andiamo avanti. 16 marzo 1782, decreto regio che abolisce il tribunale dell'Inquisizione nel Regno di Napoli. Cancellati i suoi stemmi, bruciati i suoi atti. 17 marzo 2016, ex parroco bergamasco a giudizio per pedofilia. Il misfatto avvenne all'oratorio di Serina, la bimba aveva solo 6 anni. 18 marzo 2017, due suore e un sacerdote arrestati in India. Nel Kerala trafficavano i neonati adottabili. Ricordiamo poi l'epidemia che è in corso e il titolo del quotidiano gratuito Leggo del 9 marzo. La messa è finita. Angelus, Papa in streaming, stop a matrimoni e funerali. Sospesi tutti i riti. Vabbè, non tutto il male viene per nuocere. E dal Corriere della Sera dell'11 marzo 2020, chiude San Pietro, controlli in strada, tutti a casa. E veniamo al comunicato stampa del Circolo Giordano Bruno a proposito appunto dell'epidemia. La messa è finita, è il titolo provocatorio del quotidiano gratuito Leggo a pagina 4 del 9 marzo 2020. Sospese messe, pellegrinaggi, processioni. A Roma chiusa la Basilica di San Pietro, a Lourdes chiuse tutte le piscine e a Udine chiuso il seminario, messi in quarantena i seminaristi. Tali successi anticlericali sono stati possibili grazie anche alla rendevolezza del clero e del Vaticano. Ormai nemmeno loro credono più all'efficacia di reliquie e preghiere. Tali chiese sbarrate siano il primo passo per la loro trasformazione definitiva in musei, sale da concerto e teatri, eccetera. www.giordanobrunomi.wordpress.com marzo 2020. Ciao a tutti, saluti alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario.